9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, e naturalmente la musichetta brasiliano, finta festa, festa vera, mi auguro vera per voi, per me insomma non troppo, io oramai sono un vecchietto, ma il venerdì 31 dicembre San Silvestro, mi ha sempre fatto sorridere che Silvestro fosse il nome del gatto dei cartoon che mi fosse più caro, e quindi per un gattofilo finire con il nome del gatto per definizione, con la sua marsina bianconera, non juventina ma bianconera, perché l'ho sparato bianco sul suo pelo nero, per così dire, mi è fatto sempre sorridere. Allora, il fine anno è una occasione per molti, moltissimi, mi auguro per molti di voi, di serenità, di festa, di rallegramento, e anche l'occasione ovviamente di un bilancio laico, di quelli che si fanno ogni mattina e ogni sera per chi ha una coscienza, ovviamente, non voglio far lezione a nessuno, ma io lo auguro come metodo di breviario di vita a tutti quanti, perché naturalmente più si progredisce con gli anni in questo parziale appartenenza a questa comunità, in questo frammento che vaga nel cosmo, più viene poi l'idea che il debito che si ha con le generazioni successive, con quella dei nostri genitori e progenitori che ci ha dato quello che ci ha dato, insomma diventa forte, perché è così, è inevitabile. Sono pochi coloro che sanno inoltrarsi nel cammino della vita mantenendo la serenità e l'allegria di quando si è giovani, eppure bisogna saperlo fare, perché il conto di fine anno, il conto di ogni inizio giornata e il conto del dare e dell'avere sono in realtà ciò che ci fa sentire comunità, sono forse anche, rispetto sia chi crede che chi non crede, ma sono anche il senso di ciò che probabilmente possiamo attribuire a questa permanenza pro tempore su questo frammento di polvere cosmica. E in tutto questo quindi facciamo una trasmissione dell'ultimo dell'anno in cui vi chiediamo di dirci, telefonando con grande sincerità, che cosa più e che cosa meno, insomma il vostro mister sì e mister no dell'anno che si chiude, di farlo in forma stringata, di farlo anche con un po' di ironia, almeno questo quest'ultimo giorno risparmiamoci i toni di delegittimazione da anfiteatro Flavio che si usano così troppo spesso nella politica e nei media italiani, e cerchiamo di dare giudizi che siano un po' anche autocritici e sereni e composti. Quindi ve l'ho detto, iniziate a telefonare, perché le telefonate inizieremo a mandarle molto presto, ma a commentarle con noi c'è, scusate perché c'è il naso che ha deciso di opporre una strenua resistenza a questa impostazione di trasmissione l'ultimo dell'anno, vi devo chiedere scusa perché perde vistosamente, c'è Giampaolo Pansa, e Giampaolo Pansa è stato spesso ospite a questi microfoni e io lo voglio ancora ringraziare, perché che trovi quest'ora, l'ultimo dell'anno, per noi, per voi ascoltatori, quando si è un maestro della sua vaglia come giornalista, come osservatore della vita italiana, come di scrittore e scrittore di libri di storia civile, come tutti quelli che ha dedicato in forma diversa alla lunga coda della guerra civile, ne abbiamo parlato più volte, ancora adesso vi ricordo che in edicola, in libreria voglio dire, c'è I Vinti non dimenticano, che ha scritto, ed è non l'ultimo perché altri ne farà e altri ce ne riserverà dei suoi libri sulla guerra civile italiana, io lo ringrazio e chiedo anche a lui, oltre a ringraziarlo e a dargli un buon anno nuovo entrante, che cosa gli è piaciuto di più e cosa gli è piaciuto di meno di questo anno che si chiude. Allora, prima di tutto buon anno a tutti, buon anno a te caro Oscar. Per essere sintetico, per me è stato un anno fortunato, perché se lo vedo dal 31 dicembre dico queste pochissime cose. A, sono ancora vivo. B, non sono ammalato. Terzo, vivo con la donna che amo e che si occupa di me, Adele Grisendi, qui davanti a me, e la ringrazio con un sorriso. Ho pubblicato il libro che ho appena ricordato, che ha avuto un successo pazzesco perché ha fatto 11 edizioni, è uscito all'inizio d'ottobre, ha venduto più di 100.000 copie, ho scritto i miei articolacci su due giornali e dopodiché me ne sono sempre stato a casa. Io non amo andare in vacanza, la mia vacanza è scrivere, è leggere e scrivere. In questo momento sono nel mio paesello toscano, non diciamo qual è, così non mi rompono le scatole, sto per fare colazione insieme ad Adele. Vi saluto tutti e il mio anno è stato questo, quindi vorrei che il 2011 il grasso che cola fosse identico a quello del 2010. Oh, io posso dire che amo la sincerità di un uomo che mette tra le cose anche il pubblico, perché bisogna esserne grati in pubblico, la solidità e l'affetto ricambiato, l'amore ricambiato con la donna che si ama, e lo mi auguro che chi ci ascolta faccia lo stesso per le tante cose a cui non siamo stati all'altezza. Io per esempio da figlio ho molto da scusarmi con mia madre, ma qui finisco la mia parte privata. Però trovo che questo sentimento, il sentimento dell'amore, sia un sentimento che, se diventa anche capacità di declinarlo in pubblico, significa testimonianza di qualche cosa che ci riempie davvero la vita, e bisogna essere anche pronti ad ammettere quando non si è all'altezza. Allora Giampaolo, ti propongo di fare battute su, non su quello che io parlerò il meno possibile, ma su quello che i nostri ascoltatori iniziano a proporci come loro commento, perché vedrai che toccheremo sia la vicenda della politica che le vicende, diciamo, del costume e della cultura italiana. Cominciamo con Giorgio, che ci chiama da Pisa. Giorgio da Pisa, cosa gli è piaciuto e cosa no dell'anno che si chiude? Ma io volevo dire il personaggio dell'anno italiano, per me lo posso dire? E come no? È sindaco di Firenze Renzi. Io sono un elettore di destra, però il personaggio dell'anno per me è il sindaco di Firenze, che sa dire di no alle mummie del suo partito, dei grandi della nomenclatura del PD. Beh, Giorgio, posso dire che è una delle belle sorprese, non per me, io lo conoscevo da prima, quando si vincono le primarie partendo dal basso, sgominando capi partito agguerriti nel partitone rosso a Firenze, si attempra, e quindi per questo l'abbiamo più volte sentito. Che ne pensa Panza di Renzi? Ma Renzi è simpatico, è uno coraggioso, però per diventare un leader deve mangiare molti piatti di minestra, oppure, essendo toscano, molti piatti di pici, di tagliatelle. Quindi coraggio, si robustisca, mangi e si dia da fare. Poi Cinzia da Padova, sentiamo Cinzia invece. Professor Zannino, e un complimento al suo Panza, perché è veramente bravo. Vorrei che eliminasse, cioè, per quest'anno veramente sono stata troppo difficile, è stato troppo difficile per me per le tasse, e vorrei che il prossimo anno eliminassero oppure cambiassero gli studi di settore, perché io che ho un piccolo, cioè sono una piccola artigiana, lavoro anche 15 ore al giorno, e vorrei ironicamente dire allo Stato: io ti pago 9-10 ore, ma le altre lasciamele, perché non è giusto che se io rinuncio ad andare a divertirmi per costruire un futuro ai miei figli, devo darti tutto a te. Cioè, mi sembra, un operaio non può fare più di un tot ore al giorno. Io invece, noi artigiani, e mi dispiace per quelli che ci distrattano continuamente dicendo che evadiamo le tasse, che facciamo questo, che facciamo l'altro, non capiscono che per noi è molto difficile andare avanti adesso. Non abbiamo nessuna copertura se ci ammaliamo, dobbiamo continuare a lavorare e dar sempre, cioè non è assolutamente vero quello che dicono. Lo so Cinzia, noi a questi microfoni tentiamo, io poi soprattutto che sulle tasse sono abbastanza un kamikaze, e infatti l'Agenzia delle Entrate mi ricorda molto spesso che si paga poi anche un prezzo a battersi per questo. Però detto questo, io si sa come la penso, e io Giampaolo Panza chiedo invece della promessa mancata per l'ennesima volta di abbassarla, di questo centrodestra, di Berlusconi, di Tremonti, che cosa penso? Ma prima di tutto voglio essere solidale con la signora, perché anche mia madre era un'artigiana, aveva un piccolo laboratorio e negozio di mode sulla via centrale della città, e ancora tanti anni fa si lamentava, allora dicevamo delle imposte. Però la signora deve essere delusa, le tasse nel 2011 aumenteranno, non c'è dubbio, perché i partiti, ossia il governo e lo Stato, non hanno più soldi, si rivarranno su quei pochi che ritengono ricchi, mentre invece sono quasi sempre solo dei contribuenti fedeli che dicono la verità nel fare la denuncia del fisco. Per cui certo il governo, io non ho mai creduto a un governo che dice abbasso le tasse, l'ho sentito dire anche tante volte durante la Prima Repubblica, ma ho sempre visto che le tasse non solo non scendevano ma crescevano. Ecco, questa è la mia opinione secca. Io penso che tu abbia ragione, perché la storia ti dà ragione. Le serie storiche italiane dimostrano che le tasse sono sempre state alla rincorsa della spesa, che destra e sinistra hanno sempre fatto salire. In tre soli anni, nell'intero secondo dopoguerra in Italia, noi abbiamo assistito a un'inversione in termini reali della spesa pubblica. In tre soli anni, su più di 60. Quindi la storia dà ragione a Giampaolo Panza. Le tasse sono sempre salite, tranne che in quei tre anni, e non... sono scese, questa è la verità. Temo che abbia ragione anche sulla patrimoniale, perché per essere chiari, la fame che c'è nel bilancio pubblico italiano e quello che si vede nella destra, nella sinistra, tutti invocano più spesa pubblica per i film, per i teatri, per Pompei, per gli insegnanti, per qua, per là, e vi documentiamo ogni giorno le nuove notizie di assunzioni a tempo indeterminato che vengono dalle sedi locali del potere italiano, no? Abbiamo fatto 31.000 assunti in due settimane nella sola regione Sicilia. Questo testimonia che, poiché sui redditi siamo a livelli record di pressione per chi le paga, purtroppo, la prossima botta che potrebbe riservarci la politica italiana è la patrimoniale. Avete visto la proposta di Giuliano Amato, Carlo De Benedetti la propone da anni, però attenzione che anche nel centrodestra ci si è messi in condizioni di entrarvi nel patrimonio con l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate, e non è detto che di fronte a un eventuale nuovo ballo dell'eurodebito poi non si mettano d'accordo e un giorno vi svegliate e il vostro conto e il vostro mattone saranno alleggeriti. Speriamo di no, però attenzione che dal 2011 al 2012 potrebbe avvenire. Sentiamo Franco che chiama da Padova invece. Che... Sì, buongiorno a tutti e vi ringrazio per le ottime trasmissioni che fate. Io non vorrei fare una specie di supplica a lei, ma soprattutto a Radio 24, perché ritengo che siate determinanti nelle informazioni socio-politica e economica di questo paese. Ecco, prendo spunto velocemente da quello che ha detto Claudio Velardi su Italia Oggi attraverso il suo sito, affermando che la qualità della stampa italiana, dei giornalisti italiani, è scarsissima, se non inesistente. E secondo me questo è il punto di partenza. Ma lei, quando dice che la qualità è scarsa, che cos'è che le dà più fastidio? No, le spiego, io sono un autodidatta che ha la terza media, però ho studiato dal 1996 i bilanci dello Stato pubblicati dalla Ragioneria Generale dello Stato. Il problema principale di questo paese è che ai cittadini manca l'informazione, l'ADC, per sapere qual è la realtà e socio, anzi economica e fiscale del paese. Questo sarebbe determinante, magari se voi faceste delle trasmissioni sulla pubblicazione dei costi medi dei cittadini, i cittadini siciliani potrebbero sapere che i loro amministratori, pur avendo a disposizione il doppio della spesa, il doppio dei soldi pro capite della Lombardia, fanno tutti i giorni buchi sull'acqua perché non gli bastano 4.500 euro cittadino, mentre a Formigoni ne bastano 2.000. Allora capirebbero che i soldi non vanno al sud, ma vanno agli amministratori del sud che li dilapidano. Bravo Franco. Quindi non tu... a caso quello che sta succedendo adesso, scusi se mi permetto. Prego. La lotta politica, non cito neanche nome volutamente, sta avvenendo solo perché se avvenisse questa specie di larvato federalismo molto blando e l'applicazione soprattutto dei costi standard, un'intera generazione più generazioni di amministratori dovrebbero suicidarsi. Lo so, e questo è il motivo per cui da questi microfoni con alcuni, molto pochi altri a dire la verità, abbiamo criticato l'apparato dei decreti attuativi del federalismo, che a me per primo, come Luca Ricolfi, sembra troppo blando rispetto alle promesse. Non ci farà risparmiare i 52 miliardi che avevamo elaborato come indicatori del riappianamento per maggior qualità e minor onere a parità di standard elevato di servizio sul territorio nazionale, ma probabilmente nella migliore dei casi, quand'anche riuscissero a essere approvati, perché oggi c'è una nuova intervista sul Messaggero del segretario dell'UDC che dice che non li voteranno, quelli di AN dicono, avete sentito ieri sera Porta a Porta, che no, va un po' corretto, quindi non si sa se ce la si fa con i decreti attuativi del federalismo, ma quand'anche fossero applicati in questa versione blanda, come ha detto lei, per ottenere consenso, con ogni probabilità noi otteniamo, se va bene, la parità del livello di spesa pubblica, che è 52,5% del PIL, lo ricordo a tutti, e che è troppo elevata. Ecco, in queste condizioni lei vorrebbe un'informazione che parla più di cifre, numeri, fatti e meno di opinioni e litigi. Che ne pensa Panza di come si è evoluta l'informazione italiana? Cosa ne penso? mi viene da ridere, mi viene da ridere perché io leggo 12 giornali al giorno e alla fine ne so meno di prima. E a cominciare dai miei articoli, poi io però grazie a Dio non sono esperto di nulla, tantomeno esperto delle cose che questo signore pretende giustamente dai giornali e che ha soltanto da Oscar Giannino e da pochi intimi. Ma voglio soltanto dire una cosa: i giornali sono sempre lo specchio di questo paese, così come la politica. Allora, i giornali contano in certi momenti molto di più dei partiti, ma quasi sempre molto meno, e soprattutto dei partiti. Questo signore sia tranquillo, deve soltanto ringraziare che i politici non ci bombardino, e questa è la cosa. Voi non avete mai sentito i bombardamenti? Io l'ho sentito da bambino, erano terribili, sia quando li facevano gli americani e gli inglesi, sia quando li facevano i tedeschi con questi Stukas terribili. Ringraziamo che il Parlamento italiano ogni giorno non decida di bombardare una città del nostro paese. Vedete che cosa vuol dire avere una grande saggezza incorporata? Non dimenticare, perché può sembrare una battuta questa, Giampaolo, però io la prendo così, ma ognuno arriva in un modo, a me arriva così. Io che ho avuto nella vita dei miei familiari un impatto terribile della guerra, ho sempre toccato con mano, nella mia testa c'è sempre stata questa cosa, che non bisogna dimenticare che solo una generazione prima alla mia, la guerra c'è stata davvero, ha messo un ginocchio un paese che già aveva molto poco e che è stato capace poi di rimettersi in piedi. Non dimenticare che di cosa sono stati capaci gli italiani, che in 15 anni, dal 1946 al 1961, hanno aumentato il proprio reddito pro capite del 550%, pensate, in soli 15 anni. In 150 anni di storia unitaria, adesso cominciamo le celebrazioni, il reddito pro capite degli italiani è aumentato di circa l'850%, ma ben il 550% si deve a quegli italiani che, nella generazione di mio padre e di mia madre, dopo la cosa terrificante della guerra civile, senza che avessero grandi lauree, non avevano studiato all'estero, non avevano patrimonio, non c'era praticamente più niente in piedi di quello che era l'Italia produttiva, hanno saputo fare questa cosa. Ricordarlo nella maniera saggiamente polemica verso la politica di chi non si aspetta molto, come ha fatto Pansa, significa però ricordare anche ciò che questo paese, i suoi cittadini, sono stati capaci di fare. Perché bisogna immaginare che se sono stati capaci di farlo tra il 45 e il 60 non sarebbero capaci di farlo oggi, messi nelle giuste condizioni? Io ci credo, il mio è un atto di fede, di fiducia verso gli italiani che hanno la schiena dritta, che si tirano sulle maniche, malgrado le tasse, le autostrade che non ci sono, tutte le esternalità negative, secondo me sono la grande forza. Non si può in 40 anni dirazzare del tutto, su, non diciamo sciocchezza, quindi cerchiamo di fare tesoro di questa saggezza storica di Giampaolo. Sentiamo Gianluca che ci chiama da Varese. Sì, salve Giannino. A me è piaciuto molto l'intervento che ha fatto il Censis sul desiderio. Ah, però. Perché cioè? Finalmente abbiamo visto che il problema è un po' anche antropologico dell'uomo, insomma. E mi è piaciuto tantissimo il fatto che diceva basta lamentarsi, come quasi che fotografasse che la società sia, come diceva Ferraro un po' di tempo fa, già stanca. Secondo me è un punto veramente bello. Quello che non mi è piaciuto è stato Fini. E qui lei si ferma, cioè non dice una sola parola. Sufficiente. Va bene, va bene. Dunque, Gianluca, con questa cosa dell'aspetto antropologico, del desiderio, introduce un tema in cui di solito l'informazione stenta a inoltrarsi, perché secondo me tanto chi scrive sui giornali, quindi chi parla alla radio, conduce trasmissioni televisive, a parlare di categorie come il desiderio, al di là del desiderio sessuale, di quello che serve a strizzare l'occhiolino per aumentare le vendite o gli ascolti, ma la dimensione antropologica del desiderio, della delusione, di ciò che motiva gli uomini è qualcosa che spesso all'informazione sfugge molto, come tutta la complessità psicologica che sta dietro in realtà anche alle scelte di milioni di operatori del mercato tutti i giorni, e la fiducia a creare un mercato insieme alle regole. Il mercato non esiste in natura e la fiducia ha a che fare con il desiderio e con la paura. Allora, questa dimensione, io giro a Giampaolo Pansa per sapere come la pensa, ma qui c'è anche Fini, il tema da cui sapevi che non ti sottraevi nel bilancio del 2010. Dai, Giampaolo. Ma guarda, di Fini me la sbrigo subito, di Fini non me ne frega nulla. Lo considero un politico mediocre, ha fatto un errore tragico, è un morto che cammina dal punto di vista politico, quindi secondo me da lui non dobbiamo aspettarci più nulla. Mentre invece mi sembra molto più interessante l'altro discorso che, caro Oscar, hai, come dire, innescato tu, quello che tu chiami antropologico. Allora torniamo un istante sull'Italia del primo dopoguerra. Io l'ho vissuta perché avevo alla fine della guerra, avevo 10 anni, sono cresciuto anch'io da una famiglia umile che mi ha fatto studiare, ho aumentato anch'io il mio reddito in modo molto forte, anche dovuto alla fortuna di essere entrato in grandi giornali tipo La Stampa, però quello era un paese di giovani, anche di quelli che erano tornati dalla guerra erano ancora giovani, perché un signore del 1920 che tornava a casa come il papà di Adele dopo essere stato prigioniero in Germania dal 1943 fino a maggio o giugno del 1945 era comunque un signore che aveva 25 anni, questa è la verità. E allora quello era un paese di giovani che avevano bisogno di costruire un futuro, di cercarsi una famiglia, di progredire, di vivere un po' meglio di quanto non fossero vissuti nella loro infanzia, e sono andati avanti, hanno cresciuto il proprio reddito nella misura impressionante che hai citato tu. Questo di oggi è un paese in declino, noi siamo un paese di vecchi, io sono un vecchio, quando guardavo mia nonna che aveva 74-75 anni mi sembrava decrepita, non era soltanto analfabeta, era pure vecchia, capito? Oggi invece un signore della mia età, se non è assistito proprio dalla sfortuna che lo perseguita, è ancora considerato un signore molto valido. Ma abbiamo grandi direttori di giornali che hanno 80 anni, o gente che spera di diventarlo 86 anni. Quindi da questo punto di vista non c'è molta più speranza. Siamo un paese che è invecchiato, dove nascono pochi bambini, dove la gente non ha coraggio, dove i giovani, che giustamente il compianto Padova Scoppia chiamava dei bamboccioni, non hanno tutto finché ci sono i genitori o i nonni che li sostengono, li finanziano. Ma che cosa volete che succeda a questo paese? C'è un amico appena tornato dalla Germania, mi dice: la Germania sta diventando una potenza impressionante, impressionante, e ci guarda quasi con disprezzo. Mamma mia, ecco qua. Eh sì, e questa fotografia di Giampaolo è una è la fotografia delle determinanti della bassa crescita, innanzitutto demografica, indotta dal fatto che le nostre politiche, innanzitutto fiscali, perché abbiamo un fisco che nei paesi non anglosassoni, ma in quelli dell'Europa continentale è il più nemico della famiglia. Tante volte lo abbiamo detto, a parità di fascia di reddito e a parità di numerosità di famiglia, per esempio con una famiglia con 3 figli a carico, che pure è l'eccezione rispetto alla condizione della famiglia italiana. Ricordo tutti che noi siamo fermi a un tasso di sostituzione demografica, cioè di fecondità per donna fermo per i residenti italiani all'1,4 per donna, il tasso di equilibrio è 2,1, è un po' innalzato in questi anni dalla componente delle residenti immigrate, che sono oltre 2. Detto questo, noi rimaniamo molto lontani dal tasso di equilibrio, proprio per questo continueremo ad avere bisogno, è inutile che protestiamo, di immigrati legali per sostenere il flusso dei contributi previdenziali al nostro sistema. Se non miglioriamo il tasso di fecondità e il numero di figli per coppia, avremo bisogno di circa 6 milioni, puntatevi questa cifra, nei prossimi 15 anni, 6 milioni di nuovi immigrati, quindi un ritmo superiore ai 300.000 l'anno. Ricordo a tutti l'impatto terribile che nella vita italiana ha avuto un flusso di immigrati legalizzati intorno ai 200.000, che è stato il punto di picco anno solo dopo le grandi regolarizzazioni, cioè i condoni. Ecco, questo ci dicono i conti intergenerazionali, e i conti intergenerazionali di una generazione in cui i giovani, cioè per giovani io intendo gli oltre 9 milioni sul totale di 23 milioni di lavoratori italiani che sono esclusi dallo statuto dei lavoratori, dalla piena tutela, dal contratto a tempo indeterminato, sono più di 9 milioni, quindi ecco, tutti quelli premono perché non hanno garanzie, non hanno le pensioni che hanno avuto le generazioni future, hanno impieghi di durata molto più bassa e a condizioni salariali molto più infelici degli ipertutelati, eppure continuiamo tutti a immaginare che siano gli ipertutelati il modello. E Come sempre Giampaolo in poche parole ci racconta un'Italia di numeri che spiega perché quel 550%, 45-61 a molti sembra irripetibile, però io penso che gli italiani hanno la stessa testa e forse l'hanno anche un po' migliorata, dovrebbero semplicemente prendere a calci nel culo, perdonate, chi invece queste cose, essendo politico, non ne parla perché parla magari di figli, mogli, ammonti, eccetera, eccetera, eccetera. Detto questo, pubblicità. Alcuni dei nostri ascoltatori reagiscono a questo paragone 45-61 dicendo: ma allora c'era tutto da ricostruire, che cosa vuoi fare Oscar? Vuoi mica augurarti una guerra nuova? Cioè, certo che sì, però ho detto che non c'era capitale né fisico né finanziario né immateriale, cioè capitale umano per così dire, eppure ci si è riusciti. Questo era il mio è vero che oggi l'età media è più elevata, come dice Giampaolo Panza. Altri dicono: per vedere Italia come decrepita e avviata sul declino, come giustamente dice Panza, prima ancora di andare in Germania basta andare in Turchia, è la Turchia che ci fa toccare con mano quanto rimaniamo indietro. Alcuni non si ritrovano nel giudizio su Fini, dicono: ma perché a Fini non si riconosce il coraggio? Questo Susanna da Milano, non capisco, secondo me ci vuole il fegato per rompere sul muso di Berlusconi. Opinioni varie e diverse, ovviamente. Fini è stata la lunga commedia della rottura tra Fini e Berlusconi, è stato il motivo politico del centrodestra dell'anno, il motivo della discesa nei sondaggi, della discesa del margine di maggioranza, dell'attutirsi della capacità di governo dell'esecutivo. Vedremo l'anno prossimo che ci dirà su questo. Silvio da Pescara, prego Silvio, cosa le è piaciuto e cosa no? Buongiorno, dunque a me, forse vado controcorrente, è piaciuto Bersani. Le è piaciuto Bersani? Sì, perché è l'unico che cerca di creare un'alternativa a Berlusconi, reale e credibile. Non c'è dubbio che in questo paese, a mio parere, è necessaria realizzare un'alternativa a Berlusconi, e Bersani, contrapponendosi a populismi di destra e di sinistra, mi riferisco per quanto riguarda i populismi di sinistra a Vendola, a Renzi e lo stesso Di Pietro, come si dice, cerca di tenere la barra dritta e di vedere di creare un'alternativa credibile. Poi penso che in questo processo i giovani devono essere la forza propulsiva, non c'è dubbio, e dunque sicuramente vedo forse più che in Renzi Incivati, il futuro leader del Partito Democratico. Ah, Pippo Incivati, lei ha delle scelte taglienti, secche, cioè, però le devo fare una domanda, Silvio, per spiegare meglio, spieghi meglio a chi ascolta. Lei dice: mi piace Bersani perché rispetto agli eccessi, diciamo così, della via populista di sinistra di Nichi Vendola, io Nichi lo conosco da quando siamo giovani, lo considero un singolare interessante impasto, non sono d'accordo con quasi nulla, però un singolare interessante impasto tra Gramsci e Padre Pio. Ma detto questo, lei dice: io apprezzo Bersani, per esempio le faccio una domanda sulla vicenda Fiat Marchionne Mirafiori. Abbiamo tutti visto il PD che da una parte Fassino, D'Alema, Chiamparino dicono: se io fossi a Mirafiori voterei sì, ed è questa la scelta che bisogna fare, non bisogna rimanere isolati come la FIOM. Dall'altra Bersani, Fassina, che è responsabile economico, sono su una linea che quasi ha chiesto a Confindustria di distinguersi da Fiat per dare una cornice nazionale che non sia quella del chi non firma non è rappresentato, che è il succo di Mirafiori e Pomigliano. Dall'altra poi ci sono tutti gli altri esponenti del partito che invece la pensano come Vendola e come la FIOM, eccetera eccetera. In questo, la domanda che faccio a Silvio è: le sembra che Bersani, nel suo tentativo che lei apprezza, abbia avuto la capacità, quel gradino in più come leader del partito, per dare al PD su un tema così centrale, importante come Mirafiori, la Fiat, le relazioni industriali, per un partito che ha la storia, la tradizione, l'ambizione che ha il PD, di incarnare proprio quello che lei dice? Ne è stato soddisfatto, Silvio? Ma io se lo guardiamo da un punto di vista generale, dico di sì, perché noi in questo paese dobbiamo riscrivere i diritti per il mondo del lavoro, cercando forse di abbassare i diritti in alcune realtà, penso al pubblico impiego, alle realtà ipersindicalizzate, per poterle aumentare nelle aree a zero diritti. Va bene, Silvio, dice Bersani e ci conferma che anche sulla Fiat, stretto tra una parte e l'altra, se l'è cavata bene. Panza come lo aggiudica invece? Ma guardi, io non sono d'accordo con il simpatico ascoltatore che ha parlato, ma penso che soprattutto non sia d'accordo su Bersani una gran parte del Partito Democratico. perché guardate, io sono un vecchio esperto, parlo come cronista della sinistra italiana, in 50 anni, e domani farò 50 anni esatti, anzi entro nel 51esimo anno della mia attività di giornalista, l'ho raccontato in tutte le salse, ma non ho mai visto un caos come questo. Cioè, se osservo anche solo guardandolo attraverso i giornali, anche dimenticando i racconti poi di amici che ascolto, è una situazione folle. Ci sono quelle famiglie, come quelle famiglie dove non comanda più nessuno, dove c'è soltanto un'anarchia totale, quindi è un guaio terribile, perché io vorrei un Partito Democratico molto forte, coeso, stretto attorno al suo leader, è in grado Bersani di imporsi su questa famiglia di matti, che è il Partito Democratico, ma io mi auguro di sì, però non ne sono per niente sicuro. E di Vendola che pensi invece? Dunque, Nichi Vendola, io penso di conoscerlo meglio di tanti e anche forse meglio di te, caro Oscar. Nichi Vendola ha un tratto indimenticabile, è una persona cattiva, è un maligno. Dietro questa sua aria da piacione che può, vuole andare d'accordo per tutti, non è affatto così. E sai perché lo dico? Perché io sono un signore con i capelli bianchi e sono un lettore di giornali. Quando la Rifondazione Comunista aveva un quotidiano, c'era ancora oggi, ma quasi clandestino, che era Liberazione, Vendola aveva una rubrica, Il dito nell'occhio. Beh, voi non avete idea che cosa ha scritto in questa rubrica. A proposito di tutta gente di sinistra, di centrosinistra, dei radicali, dei socialisti, dei comunisti, del PC, una roba folle. È un sadico politicamente parlando, naturalmente, Vendola. Quindi attenzione a non farvi ingannare dal suo volto piacione, perché ha un'altra faccia, che è quella del cattivo, della carogna politica. No, io devo ammettere, invece la mia testimonianza è di quando giovani, attività politica giovanile, andando a rompere le scatole, perché io questo facevo nell'est europeo, perché avendo un minimo di copertura e di immunità per l'organizzazione politica internazionale a cui appartenevo, devo ammettere Nichi, che all'epoca faceva parte della direzione nazionale della FIGC, sto parlando della FIGC, quella del Folena segretario, rompeva molto le scatole rispetto agli altri, erano molto più timidi, non aveva ancora fatto outing in maniera tradizionale, però insomma era evidente che aveva tratti, stili di vita e giudizio molto diversi da quelli dell'allora ancora perpetuato stile del grande partito comunista dell'autonomia nazionale togliattiana, e rompeva molto le scatole, e questo io gliel'ho visto fare, lo abbiamo fatto insieme, sia pur pensandola in maniera diametralmente opposta, in contesti che non erano quelli, erano quelli della pre-caduta del muro, ma di molti anni, quelli della pre-apertura andropoviana, quindi insomma sto parlando insomma di un'epoca in cui era molto complicato, soprattutto per uno che era un giovane comunista, però dice Giampaolo, dietro questo volto c'è un'anima cattiva. E quindi noi prendiamo debita nota, perché io di quello che Giampaolo nota, dovete sapere che quando ero giovane, per noi le cronache del partito, dei congressi del PC che faceva Giampaolo Pansa, erano considerati dei pezzi di scuola di giornalismo, nel senso che so che mi viene da ridere, perché purtroppo penso che era vero, mentre noi talvolta sbuffavamo dicendo ma che ci vuole mai a mettersi lì col binocolo in platea a guardare, invece poi quando prendi gli anni, capisci che ti dicevano che era scuola del giornalismo e avevano ragione. Sentiamo allora come la pensa Paolo, che ci chiama dalla provincia di Macerata. Paolo, mi sa che ha caduto la linea? Paolo, mi pare di sì. O c'è? Eccoci, ci dica Paolo, cosa non le è piaciuto o piaciuto allora, in quest'anno? Buongiorno, e io inizio il 2011 nel migliore dei modi, perché parlare con due italiani con la I maiuscola come voi per me è un onore. Cioè, i due italiani sono uno Giampaolo e l'altro Pansa, perché lui vale per due. No, vada al dunque, senza complimenti. No, non è un complimento, le garantisco che molte persone che io conosco la pensano come me. Vada al dunque, non mi confonda, non si metta a ondularmi, come diceva Totò. Comunque siamo fieri. Allora, le dicevo, io ho perso mio padre giovanissimo, ho iniziato a lavorare quando non capivo nulla del lavoro, e ho due figli, ho una vita classica che hanno avuto purtroppo tanti italiani, e sono abituato a lavorare da sempre. Per il 2011 mi piacerebbe che lo Stato italiano istituisse l'Agenzia delle Uscite. dove un organo, diciamo, possibilmente svincolato dai partiti, so che in Italia è una cosa quasi impossibile, possa controllare in qualsiasi momento del giorno se un ufficio statale, periferico, parastatale, insomma chiunque consumi soldi pubblici, possa essere verificato da persone tecnicamente impeccabili, tecnici diciamo che conoscano bene il loro lavoro e possano darti conto di quello che hanno combinato in quell'anno, in quel mese o in quel periodo di tempo per il quale sono controllati. Visto che noi cittadini normali subiamo quello che ha detto lei all'inizio, alcune situazioni poco piacevoli, io ho subito come lei purtroppo situazioni poco piacevoli, mi piacerebbe che chi spende i soldi pubblici possa essere verificato in qualsiasi momento e dia da conto in modo preciso di quello che ha realizzato in quel periodo per cui ha controllato. Non Paolo, so se... lei pone un problema essenziale nelle democrazie avanzate e complesse, essenziale. Grandi paesi che hanno modelli di forma di governo e forma stato diversi dai nostri, come gli Stati Uniti per esempio, dove c'è un esecutivo molto forte, il presidente eletto, e poi c'era un Parlamento altrettanto forte, in quel caso per esempio la attendibilità dei numeri del denaro pubblico speso non sta, come da noi, nella ragioneria generale dello Stato, cioè nelle mani del governo, per essere chiari, unilateralmente del governo pro tempore, anche se naturalmente va prestato rispetto ai tecnici che lavorano alla ragioneria generale. Canzio, ragioneria generale dello Stato, non è un politico, però è inevitabile che la ragioneria generale non possa che subire un po' l'influenza del ministro in carica. E in America c'è una roba che si chiama Congressional Budget Office, che ha capacità tecnica, cioè ha decine e decine, centinaia anzi, di addetti di livello tecnico, economisti, esperti di matematica finanziaria, di contabilità pubblica, di statistica, di primissimo livello, che sono in grado loro di fare una certificazione del tutto autonoma e indipendente rispetto a qualunque proposta del governo e di valutarla nel tempo. Infatti si fa quasi sempre riferimento per gli andamenti per valutare le proposte della politica, sia da una parte che dall'altra americana. Il Congresso al Budget Office è un'autorità riconosciuta da questo punto di vista. Questa funzione è una funzione essenziale in ogni democrazia complessa, tanto più in quelle bipolari, in cui cioè la politica tende ad avere uno scontro molto duro e tende a delegittimare qualunque cosa fatta dagli altri, dove alla fine chi ci va di mezzo, in Italia almeno funziona così, è il contribuente, perché entrambi poi, dando la colpa agli altri, alzano le tasse e spendono di più. Quindi lei pone un problema molto rilevante. I politici italiani questa roba qua neanche a fucilate io li vedo in grado, cioè bisogna fare una rivolta dal basso, i forconi, scendere dal basso noi e dare il voto a qualcuno che ci dice che in 5 anni ci fa l'aliquota al 23% e che, per non farci rischiare sui mercati, in quei 5 anni più emerge più scende davvero, altrimenti si interrompe se gli italiani non seguono, e per oltretutto non farci ballare sui mercati dismette i 350 miliardi di patrimonio pubblico immobiliare che sono dismettibili in maniera di mercato e con prezzi di mercato, e in più, se non basta, per non farci ballare sul mercato, fa anche una micro patrimoniale che va a esaurimento quanto più c'è l'emersione del gettito, con un'aliquota al 23% uguale sia per redditi di persone fisiche che redditi di persone giuridiche. Questo sarebbe il mio programma elettorale, però appunto è il mio perché sono un pazzo minoritario. Ma che pensa invece Giampaolo Pansa di questa idea? L'agenzia del... come si fa ad avere più controllo delle uscite della spesa pubblica, Giampaolo? Bisogna ammazzare chi li spende, non c'è altra strada. Cioè, io penso che quello che ha detto questo ascoltatore di Pescara, se non sbaglio, no? Sì. Soprattutto poi quello che hai detto tu con la tua capacità di arrivare al sodo con cifre, dettagli, senza cucinare l'aria fritta, l'hai già detto tu, è una situazione impossibile in Italia, perché chi spende non vuole assolutamente essere controllato, e a spendere sono non soltanto naturalmente il Parlamento con le decisioni, il governo prima di tutto, ma tutti quelli che guidano gli enti locali, dalle grandi regioni fino al piccolo paese. Qui c'è un altro problema, non so se qualche ascoltatore lo solleverà, che è il problema della selezione della classe dirigente politica italiana. Ma tu li vedi come sono i parlamentari, specialmente da quando questa legge elettorale li ha resi tutti dei nominati, cioè Pansa è un famoso imbecille, però sta nel cuore del segretario del partito della pasta asciutta e quindi verrà messo in lista in un posto in cui sarà certamente eletto senza nemmeno fare un minuto o secondo di campagna elettorale. La selezione è quella dei peggiori. Perché Oscar Giannino fa il giornalista invece che stare in Parlamento e magari fare il ministro? Per carità, è la cosa vera, cioè tutti i discorsi che noi stiamo facendo stamattina in saluto dell'anno che se ne va e soprattutto in saluto affettuoso e speranzoso dell'anno che arriva poggiano su questa semplice verità. L'Italia è in declino anche perché è governata a tutti i livelli da delle famose teste di cazzo, scusate questa espressione. Cioè applauso qui, applauso dalla regia, applauso dagli assistenti. Non è affidabile. Unfit, si dice così in inglese. Si dice così. Non è affidata, non è adatta, non è. Mi ricordo che a un certo punto in una delle sue tante interviste Carlo De Benedetti disse che Bersani era inaffidabile oppure non era all'altezza di fare il segretario del PD. Non so se questo sia vero o meno, ma certamente la grande maggioranza dei nostri amministratori pubblici, a cominciare da quelli che stanno in Parlamento, è una roba penosa, pietosa. Basta conoscerne qualcuno per averne contezza, non sanno fare. Allora c'è un vecchio proverbio delle mie parti, che sono poi anche le tue, che dice, io sono più spostato tra il Piemonte e la Lombardia, perché il Monferrato è lì sul confine, che dice Ofelè fa il tomestè, cioè Ofelè è il pasticcere che fa i biscotti ovali, l'Offella. Sai fare gli biscotti ovali, non pretendere di fare i biscotti quadri. E invece i politici, i biscotti per i quali dovrebbero essere lì, non li sanno proprio fare. E io mi associo a quella che non è un'intemperanza, è un giudizio appropriato quello che ha detto Giampaolo Pansa sui politici, delle teste di informazione sulla circolazione stradale. Qui dallo studio con Caterina che ci chiama dalla provincia di Como. Certo, la percentuale di ascoltatrici che ha chiamato oggi testimonia che io sono veramente un problema per questa radio. Mi cacceranno anche per questo, c'è poco da fare, mi cacceranno anche perché non sono capace. Io dico sempre più donne, più donne, più donne, e tutte mi volgono la schiena. Non sto parlando della vita privata, quello è un fatto, però questo riguarda me. Sto parlando anche della percentuale di ascoltatrici. Caterina, salvaci tu, cacciami almeno tu. Allora, io sono evviva Pansa, sono d'accordissimo con tutto quello che ha detto, dicendo anche quella parola. Volevo solo dire che la cosa che più mi fa imbestialire è la considerazione, io sono di sinistra, che il nostro Presidente del Consiglio ha degli italiani. Quando si affaccia con questo sorriso cretino, che pensa che tutti gli italiani siano cretini e dice che tutto va bene. Io vorrei sentir dire non va bene, però tutti insieme ce la possiamo fare, perché io penso che ce la possiamo fare. Allora, Caterina chiede un giudizio su Berlusconi. Perlomeno lo dica una volta. Benissimo, benissimo. Sentiamo Pansa come la pensa su Berlusconi, cosa ci dobbiamo ancora aspettare? Allora, su Berlusconi sono molto sintetico. È vecchio, ha un anno meno di me, ha 74 anni ed è il più vecchio premier dell'Europa, no, non solo di quella che noi chiamiamo Europa occidentale, ma se guardiamo anche i paesi del vecchio est comunista che sono diventati democratici o parademocratici, hanno tutti capi di governo molto più giovani. È stanco, è ammalato, è ingrassato, non ce la fa più, ha solo una carta da giocare, la sua grandissima tenacia e la sua voglia di non cedere il comando. Allora, io gli ho già suggerito per iscritto in qualche mio articolo di ritirarsi, di godersi gli ultimi anni di vita che gli restano, che mi auguro siano tanti. E poi ha fatto un crack pazzesco, perché nel 2008 un partito guidato da lui ha questa maggioranza strabiliante, tanto alla Camera che al Senato, adesso si riduce ad avere la fiducia un po' più abbondante al Senato, ma alla Camera soltanto per 3 voti, quindi anche lui dovrebbe fare un esame di coscienza molto forte, molto forte. Però dall'altra parte che cosa c'è? Che cosa offre il mercato del centro-sinistra di personaggi in grado di battere Berlusconi nella gabina, come una volta diceva Bossi? Questa è la verità. Il problema non è tanto l'inefficienza del nostro Presidente del Consiglio. Il problema è che c'è l'assenza totale di un competitor, di un concorrente sull'altro fronte. Questo è drammatico, per cui quando qualche volta mi è capitato di scrivere che forse era meglio andare a votare, poi la mia magica padrona Adele mi ha fatto osservare andiamo a votare e poi il risultato ci riporterà come nel gioco del Loca al punto di partenza. Sì, un po' è così in effetti. Sentiamo invece Tommaso da Milano. Il culo, che bello. Ah, buongiorno a tutti, buon anno. Oggi è una puntata in cui vola di tutto, ho sentito una parolina ma non le chiedo come perché. Prego. Chiedo scusa. Guardi, io cerco di essere sintetico, mi sono appuntato quattro cose. Io ho 34 anni, sono di Milano, sono di sinistra, sono sempre stato di sinistra, piccolino, a bandiera di Che Guevara, eccetera, eccetera. Nel 2008 ero dipendente, avviato una buona carriera. Nel 2009 mi sono dimesso, ho creato un'azienda, oggi ho 10 dipendenti, tutti assunti a tempo indeterminato. Mi piace Marchionne, non mi piace la FIOM. Ho un profondo... No, non ho capito, le piace o non le piace Marchionne? Mi piace Marchionne, okay. Tantissimo. Non mi piace per nulla da sinistra la FIOM, ho un profondo rispetto per la storia e quindi non mi piace la FIOM oggi, la FIOM merita rispetto alla storia, ma la storia è passato, la FIOM oggi deve fare all'oggi e non mi piace da sinistra e da imprenditore che dà lavoro a 10 ragazzi tutti assunti a tempo indeterminato. Bene, l'opinione è chiara, dopodiché odio anche la mafia. Mi piace l'idea di un paese da sinistra sempre, che aiuta chi ne ha bisogno, ma verifica che l'aiuto funzioni, se no che cazzo, perdoni, se no a cosa serve l'aiuto se non funziona? E mi sento un po' un romantico, nel senso che credo nel costruire qualcosa, ma e sono un italiano come tanti. Punto, perché ci sono troppe cose, i sistemi di certificazione degli aiuti pubblici non funzionano perché gli aiuti pubblici finiscono nelle tasche degli apparati politici pro tempore e dei grassi apparati amministrativi messi in piedi dalla politica. Il motivo per cui non funziona lo spaccio, lo smaltimento, voglio dire, dei rifiuti in Campania è questo. Non, è inutile illudersi, è la politica e le amministrazioni inficiate dalla politica, le utilities che restano pubbliche quando potrebbero essere pubbliche, gestite da privati, e non succederebbe tutto questo. Solo che se lo dici così passi per pazzo privatizzatore. La mala verità ce l'abbiamo sotto gli occhi. Ma lei ci chiede un giudizio su la FIOM e Panza della FIOM e di quella sinistra che dice no a Mirafiori, che ne pensa? Ma perché mi volete sempre far fare la parte della carogna? La FIOM la conosciamo, la FIOM, allora diciamo così, la FIOM non ha più intenzione, il suo gruppo dirigente, di stare dentro la CGIL. Ne uscirà, faccio previsione per l'anno prossimo, ne uscirà presto, fonderà un partito insieme ad altri, ai movimenti antagonisti, ai movimenti studenteschi, queste cose. La FIOM è un elemento di danno per tutte le aziende di cui si occupa. Adesso io ho un vantaggio su molti dei vostri ascoltatori, come ho detto prima sono un signore di 75 anni e sono andato tante volte a Torino quando la Fiat e Mirafiori in particolare erano ridotti a un bordello dove si poteva scopare tutto il giorno, un operaio aveva 40 minuti di pausa, li prendeva tutti insieme, raccattava una ragazza che era un operaio, una signora che lavorava in Fiat, andavano nei cassoni e facevano l'amore, dopodiché abbandonavano i preservativi usati. È una cosa scioccante, certo, ma è vera, accertata, io l'ho scritta, allora lavoravo, facevo il vice direttore di Repubblica e Barba Papà Scalfari mi usava come inviato, è la storia vera. E la FIOM allora è quella, sono gli stessi protagonisti, sia pure cambiati fisicamente, che hanno distrutto, hanno già tentato di distruggere una volta la Fiat, che l'hanno bloccata nell'80 per 35 giorni, che hanno levato il blocco soltanto perché a metà ottobre dell'80 c'è stata la famosa marcia dei 40.000 e adesso riprovano, odiano il capitalismo. E questo signore che dice di aver messo su un'azienda, stia attento, non faccia avvicinare a meno di 10 chilometri qualcuno con la testa della FIOM, altrimenti cerca di rovinargliela. Ecco, ed è molto complicato, ma penso anch'io che si possa e si debba essere di sinistra, nel rispetto della storia, senza per questo bollare di cose per cui si va alle mani, ma con le idee chiare su come sono le condizioni perché l'impresa possa crescere e fare lavoro. Io vi devo dire che ho avuto oggi l'ulteriore conferma del perché amerò fino a che avrò respiro, perché morirò prima. prima io, questa è la mia convinzione. Gianpaolo Pansa nella mia vita, perché è un grande maestro, parla chiaro, quello che nell'informazione si fa poco. E poi voglio augurare a tutti voi, non ho dato la linea a quelli che mettevano me nell'argomento dell'anno, perché io non sono un argomento dell'anno, io sono polvere. Vi dico solo che auguro a tutti un 2011 eroico, perché l'eroismo è quella virtù che non, prima che in guerra, prima in cose, l'eroismo consiste nel fare guerra a se stessi, ai nostri difetti. Quello è l'eroismo più difficile da coltivare, e vale in primis per me. Vedete Pansa, se ha Adele Grisendi al suo fianco, una donna straordinaria, è perché lui i suoi difetti ha iniziato ad ammetterli in pubblico, e quello io auguro a tutti, a cominciare da me. E chissà, se riuscirò ad ammetterli davvero, si troverà anche qualcuno meglio di me in questo 2011, in questa trasmissione. Io lo auguro a voi, buoni fine, buon inizio. Viva Pansa per me, Presidente della Repubblica, uomini così, lo dico con rispetto per l'attuale, ma l'eterno Presidente che vorrei si chiama Gianpaolo Pansa. Buon 2011 e grazie a tutti coloro a cui vado in onda sempre, tutti i giorni.